E buonasera, siamo tornati in radio dopo tanto tempo. Questa è Entropia Massima, Libera Scienza in Libero Stato. Siamo in diretta da Radio Onda Rossa ancora una volta. E questa è Entropia Massima, stiamo iniziando. Questa volta ci siamo io, il comandante Jacopo, e ci abbiamo un gradito ospite che adesso introdurremo, e fra un secondo andiamo ad iniziare. Ed eccoci qua, l'ultima volta che eravamo venuti in radio era il giorno prima dell'inizio del lockdown. Caro comandante Jacopo, ti ricordi? Eravamo preoccupati, non sapevamo neanche bene cosa sarebbe successo, e forse non lo sappiamo neanche adesso. Le successive trasmissioni le abbiamo fatte dalle nostre case di isolamento, sempre pensando a chi invece dall'isolamento non ci stava, ai compagni che qui ce n'abbiamo pure uno che invece si sbattevano un pochino per cercare di aiutare. L'abbiamo ringraziato l'ultima volta, cercare di supportare chi invece mano a mano che la situazione si faceva drammatica si trovava appunto in una condizione sempre più complessa da affrontare. Qualcuno, per fortuna, sempre la Roma solidale, la città solidale, che fra poco scomparirà dai radar della politica, però sempre la città solidale è stata l'unica che si è data una mossa. Insomma, quindi ci sembrava carino ritornare. L'ultima volta che c'eravamo qui avevamo parlato in qualche modo, anche se mi ricordo, avevamo parlato con un nostro amico che aveva lavorato in Cina, con un astrofisico, se non sbaglio, un astronomo. Mario Lattanzi. Ecco, questo è il numero 3. Siamo senza regia, quindi insomma. Improvvisiamo un po'. Abbiamo parlato con lui proprio dei rapporti tra scienza e potere in Cina. Quest'anno, vi ricordate, dal fatto che l'anno scorso avevamo lanciato questa nuova trasmissione sostenuta dal titolo Libera Scienza e Libero Stato, dicendo che in sostanza soltanto una ricerca libera può aiutare noi che non siamo propriamente dentro la comunità scientifica, pur essendo magari dei tecnici, a orientarci anche nei rapporti, nelle legittimazioni del potere che fa la scienza, da quel passaggio lì. E quindi sul finanziamento, abbiamo parlato di finanziamento intelligente. Quest'anno ci eravamo un po' più concentrati sui rapporti tra scienza e potere, che sono tornati, secondo noi, prepotentemente all'attenzione in questa vicenda, diciamo, drammatica o comunque critica che stiamo affrontando ancora. L'ultima volta appunto avevamo parlato di coronavirus e di come in Cina i rapporti tra scienza e potere erano di un tipo un po' particolare, ma comunque lui, il nostro ospite, diceva che tutto sommato i ricercatori cinesi riuscivano, almeno per quanto ne aveva percepito lui, riuscivano ad essere abbastanza liberi. Certo, si occupava di buchi neri e costellazioni, magari in un altro ambito sarebbe stato meno così. Comunque eravamo fiduciosi, ci lasciamo così. Poi abbiamo fatto due trasmissioni parlando un po' del coronavirus, un po' di energie alternative, un po' di geopolitica dell'energia, tornando a rivedere di nuovo i meccanismi in cui la comunità scientifica, o la cosiddetta comunità scientifica a questo punto, può attraverso la sua capacità definire delle scelte o comunque orientare e aiutare delle scelte di tipo politico o geopolitico, addirittura nel caso del gas, e come sia pieno di invece tranelli, tipico, lo dico soltanto perché ci può essere utile questa volta qui, tipico dell'altra volta quello che è venuto fuori, che tutta sta pippa che sentiamo sempre, che abbiamo ripetuto, sull'elettrificazione delle città, il cambio il passaggio energetico, la transizione energetica, ha una parziale, un realismo parziale in un'ottica, nel mondo come attualmente è organizzato anche dal punto di vista energetico, e soprattutto in America, negli Stati Uniti, quello che sta avvenendo è che, quindi in tutto il mondo, che addirittura le istanze green delle istanze green se ne è processato proprio il potere. Quindi piano piano tu te ritrovi che fai una manifestazione con i ragazzi per il mondo diverso e possibile, e in realtà stai in qualche modo supportando le scelte green di Enel, Green Power o di qualcun altro. E quindi lì era, l'altra volta è venuta fuori che la scienza è sempre in grado, dovrebbe essere in grado, fornendo un approccio critico e più ampio possibile, di fornire una visione che cerca di far capire i trabocchetti pure del potere. Allora, tornando a parlare di scienza e potere, era carino come avevamo cominciato l'anno scorso, dicendo in cui avevamo analizzato la figura dello scienziato nella società attuale nostra, in cui lo scienziato viene visto come il mediatore tra il sapere scientifico oscuro per di più e la gente comune. È l'uomo, in una società in cui il cristianesimo, diciamo, le credenze perdono, è l'uomo, lo scienziato, l'esperto, che trasforma, è in grado di dare una grazia alle sue sovrumane capacità di leggibilità della realtà, è in grado di dare indicazioni alla società civile e nell'espressione massima dei suoi decisori politici. In questo caso nei momenti di crisi lo scienziato è quello che a quel punto, in una società laica in cui la scienza ha questo valore, in una società così nel momento di crisi lo scienziato è quello che dà la via, e così ci saremmo aspettati durante una crisi come quella pandemica. E invece, a mio avviso personale, ma credo condiviso magari con sfumature diverse da tutti noi, la comunità scientifica, quella che rappresenta, quello che da due anni quasi, diciamo, che è utilizza un linguaggio, una tecnica di comunicazione, una tecnica d'approfondimento, un linguaggio comune, no? Delle coincidenze. Io dico che ho fatto una sperimentazione, mi risponde Silvio, dice sì, ho capito, fammi vedere come hai fatto questa sperimentazione. Io parlo un linguaggio che il mio interlocutore è in grado di leggere e di riconoscere come corretto o sbagliato e di rispondermi. A quel punto lì la nostra conoscenza piano piano cresce, ma noi siamo in realtà un corpus unico che comunica attraverso una convenzione comunicativa ben stabilita. È successo questo? Boh, l'altra volta, proprio l'ultima volta che siamo venuti in radio, ci aveva colpito, e ricominciamo magari da quel punto lì, ci aveva colpito tanto questa semplificazione, questa derubricazione del coronavirus tipo SARS, che noi così da lettori di National Geographic, da niente di più, avevamo riconducevamo ad un tipo di patologia. La cosa, la banalizzazione, l'influenzalizzazione di questo virus, tra l'altro era pure un altro tipo di virus. A quel punto lì, uno che non ti dico che è nella scienza, ma che tutto sommato di scienza in qualche modo si occupa, resta un po' così. E infatti così restammo. Se era una semplice influenza, perché il virus, tra l'altro, è pure un altro tipo di virus, no? Era questa coincidenza tra sintomi, sintomatologia, attesa, infettività, insomma, voglio dire, ci si aspettava da una parte della comunità scientifica un approccio più rigoroso. Poi, se il decisore, e spesso il decisore è molto criticabile, come abbiamo visto recentemente con Gallera, male interpreta l'informazione della comunità scientifica, questo ti deve, a te osservatore, consentire di tornare alla comunità scientifica. Quindi io partirei da questo: come esce da questa domanda qui, che secondo me ne dovremmo parlare a lungo, come è uscita la scienza, la comunità scientifica, è risultata, secondo me no, autorevole in questa vicenda, attraverso tutta la vicenda, ovviamente non a un osservatore di passaggio, ma a noi che ci siamo stati immersi dentro e stavamo tutti i pomeriggi, tutte le sere attaccati, chi più chi meno, chi più in grado di leggere, chi per cultura, per interesse personale, semplicemente perché per voglia di approfondire, a cercare di capire. E siamo stati bersagliati, e faremo degli esempi, da informazioni diverse, e ne è risultato, a mio avviso, una comunità di cosiddetti scienziati scarsamente autorevole, e potenzialmente, visto che poi forniva indicazioni, potenzialmente autoritaria, in un certo senso, se la vogliamo rimettere nei rapporti col potere. Quindi io interrompo la mia diritera, che è durata meno del solito, e quindi passo la parola al comandante Jacopo, che ci introduce The Man Who We Have. Grazie Lorenzo, buonasera. Sì. Buonasera a tutte e a tutti, mi sento? Sì, mi sento bene, ecco, l'improvvisazione funziona in questo momento. Sì, prima di introdurre l'ospite, di cui tu Lorenzi già hai fatto il nome, si chiama Silvio, lo presenterò meglio tra 5 minuti. Sì, volevo aggiungere, rispetto a quello che dicevi, insomma, delle mie riflessioni che ho avuto modo, insomma, di sviluppare in questo periodo, perché come dici tu abbiamo vissuto periodi altalenanti, e tutti pendevamo dalle labbra degli scienziati. Ora abbiamo assistito, secondo me, a un dibattito della scienza che in un certo senso è comune, diciamo, tra virgolette, è normale se è relegato agli ambiti accademici, agli ambiti delle conferenze, dello scambio tra ricercatori delle stesse discipline, in cui vige il beneficio del dubbio, cioè tutti quanti di fronte a un evento sconosciuto, perché diciamo che questo virus era, sì, rientrava in una, da quanto ho capito, rientrava in una categoria che era quella dei più conosciuti coronavirus, però questo virus, il Covid-19, era sconosciuto, quindi ovviamente gli scienziati approcciavano in quel momento a indagare la natura e le dinamiche di contagio di questo virus. E quindi abbiamo assistito a chi diceva che era una semplice influenza, che poi anche appunto Silvio, l'ospite di questa sera, mi ha redarguito dicendo che in ambito accademico dire una semplice influenza vuol dire, per chi se ne intende, per un virologo, per esempio, un mondo si apre, significa già categorizzare un determinato tipo di caratteristiche comuni, no? Ecco, dirlo, però dire la stessa cosa in prima serata su Rai 1, dire che una semplice influenza, questo ovviamente è un'interpretazione errata ed è dannosa, molto dannosa rispetto poi ai comportamenti che la gente assume rispetto a questa dichiarazione. Quindi altalenanti, poi si è detto che era comunque, come abbiamo visto, un virus molto pericoloso, quindi sono partite gli interventi del governo, il lockdown, eccetera eccetera. Ora, quindi, secondo me il punto in questa situazione è stato che non c'è stato un filtro, diciamo un passaggio intermedio tra quello che è il sano dibattito scientifico a quello che è invece poi quello che la scienza deve divulgare, ma soprattutto ciò che la scienza deve fare per far prendere delle decisioni politiche. Tutto ciò è stato alla luce del sole. Questo è stato un fatto. Il secondo fatto è il conflitto che c'è, perché ovviamente nel momento in cui uno deve prendere decisioni da questo punto di vista politico e sociale, ovviamente poi le pressioni dei vari poteri sociali, economici, eccetera, eccetera, si fanno sentire. Quindi ovviamente lo scienziato che si doveva a quel punto doveva convincere i vari presidenti del Consiglio, ministri, assessori regionali e governatori, si prendeva una responsabilità enorme rispetto poi a un livello di conoscenza ancora agli inizi di questo virus, quindi ogni decisione poteva essere giusto o sbagliata e quindi poi abbiamo visto appunto cosa è successo. Voglio tralasciare ovviamente la mala gestione di determinati aspetti, soprattutto nel nord Italia, in Lombardia, gli scandali vari che si sono susseguiti poi rispetto all'RSA, eccetera, eccetera. Questo è stato proprio, secondo me, un esempio lampante di quello che fino adesso noi abbiamo sostenuto, cioè il conflitto tra la scienza e il potere, e le pressioni che la scienza ha da parte dei poteri politici ed economici, anche nel gestire una situazione così difficile, così delicata e pericolosa. Un altro aspetto che secondo me è anche da valutare è quello per cui, la scienza si trova di fronte a far vedere quello che sa. Insomma, nella democrazia, negli ambienti scientifici, tutto ciò che viene pubblicato a livello scientifico si conosce, è possibile valutarlo da chiunque, prenderne. Ora, questo ha scatenato anche, al contrario, una rincorsa da parte di chi voleva più visibilità, chi arrivava prima, chi voleva ottenere più visibilità rispetto a questa situazione, si è scatenato in analisi scientifiche rispetto a questo virus, certe volte assolutamente assurde. Adesso ne parleremo più tardi di questi aspetti, i più lampanti che si sono verificati. Gente, scienziati, ricercatori di discipline più disparate che non erano prettamente infettivologi, virologi, epidemiologi, eccetera, eccetera, biologi, si sono lanciati in campi di analisi dicendo certe volte delle vere e proprie castronerie. Comunque adesso ne parliamo di tutto ciò in maniera un po' più scientifica, appunto perché non è il mio campo questo, con uno invece, con un ricercatore che se ne occupa. Lui si chiama Silvio Paone, è dottore di ricerca di malattie infettive e microbiologia e sanità pubblica. È famoso anche perché, diciamo, dai, siete diventati famosi perché tu e come tanti altri tuoi colleghi avete aperto una pagina Facebook che poi è diventata molto famosa a livello mass mediatico, e questa pagina Facebook si chiama Coronavirus Date Analisi Scientifiche. È una pagina Facebook che poi però quotidianamente, io sono un lettore assiduo del Fatto Quotidiano, quindi ogni giorno leggevo i grafici che voi davate, no? Davate al Fatto Quotidiano da pubblicare rispetto a delle analisi statistiche rispetto all'andamento della pandemia. Siete andati pure su Sky TG. Ecco Silvio, la prima domanda che ti voglio fare è questa. Questa pagina Facebook, quando è scoppiato questa prima epidemia e poi pandemia, perché qual è stata la necessità che avete avuto per cui poi avete fatto e sviluppato questa pagina? Sì, anzitutto grazie a voi e buonasera a tutte e tutti. E no, allora in realtà in principio sostanzialmente è stato un po' il bisogno di mettersi a disposizione, cioè nel senso l'idea appunto che in qualche modo hai delle competenze che spesso tra l'altro diciamo anche sotto i nostri ambienti no è difficile trovare anche un'utilità nel quotidiano rispetto alle proprie competenze scientifiche. In questo caso invece io con altri ragazzi e ragazze abbiamo sentito diciamo anche la voglia di metterci a disposizione in questo senso, dall'altro lato anche un po' una curiosità, nel senso che questo fenomeno è così inedito, complesso, che ha preso un po' tutti di sorpresa, e quindi si è sentita anche un po' il bisogno, non so come dire, di mettersi un po' insieme in una forma più collettiva per avere un confronto, per poter fare una serie di approfondimenti. Poi la cosa chiaramente è andata molto meglio di quelle che erano anche le nostre stesse aspettative, proprio perché in qualche modo diciamo questa comunicazione scientifica spettacolarizzata, fatta come se fosse un'arena di scontri tra virologi e molto spesso terribilmente ingessata, non paga, mentre invece funziona di più il fatto che siano in qualche modo dei giovani anche con un linguaggio molto comprensibile e con un atteggiamento meno ingessato a comunicare, e quindi in realtà poi è stato un grande successo. E però ripeto, in principio per noi si trattava sostanzialmente, io sono stato contattato da Giorgio, un amico, che mi ha detto: ma mi vuoi dare una mano? Io immaginavo che non so come dire, il circuito in cui sarebbe circolata questa pagina sarebbe stato un po' un aiuto per gli amici a comprendere alcune cose, non ci aspettavamo questa roba qui, che però appunto segnala in qualche modo le difficoltà della comunicazione scientifica ufficiale. Secondo te perché ha avuto così successo questa pagina? Perché secondo me da un lato perché chiaramente lo strumento social, poi cioè moltissime persone ricercano informazioni solo sui social, dall'altro perché in questa enorme confusione di scontri tra virologi, a un certo punto era diventata una cosa veramente stucchevole per certi versi, questi virologi che facevano a gara chi era più scienziato, sono più scienziato io di quell'altro, no? Io sono più scienziato di lui e così via. Tu non hai fatto gli esami, esatto, all'università, esatto, addirittura. Esatto, ma io sono un virologo, quello invece è un infettivologo e quell'altro è un epidemiologo. Cioè, tutto questo dibattito abbastanza atroce, spesso narcisistico, non ha aiutato, nel senso che sembrava a un certo punto un talk show e non una comunicazione scientifica. E quindi magari anche il fatto che banalmente noi in quanto Pischelli, cioè io sono un precario della ricerca, tendenzialmente non so come dire, non hai anche diciamo una postura, ti presenti in un modo diverso che forse è molto più affidabile di quello di diciamo personaggi della scienza ultra referenziati, con curriculum da paura, ruoli altisonanti, ma che poi in qualche modo riproducono quelle dinamiche di potere, di rivalità e così via. Per noi non è stato così, nel senso, cioè, fuori di retorica, eravamo veramente un gruppo di pischelli con competenze scientifiche tra loro anche diverse, che hanno lavorato insieme per fare una cosa che ritenevano giusta, interessante, e non so come dire, non è che avremo chissà quale. Voglio dire, pischelli fino a un certo punto, insomma, comunque l'età giusta, insomma, siete un gruppo di giovani, insomma, tu hai circa più di 30 anni, no? Hai 30 anni, ci sarà chi avrà avuto anche di più, insomma, sì, no? Sì. Allora, Einstein ha fatto la relatività a 25, quindi non, sì, è, beh, non è il problema di età, ma non è il problema di età questo. Il problema, cioè il problema, l'aspetto fondamentale, secondo il mio modesto parere, è che siete riusciti volontariamente e anche un po', diciamo, perché poi, come dire, una cosa tira l'altra, a fare un qualcosa che ha richiamato varie discipline scientifiche. Diciamo, l'amico tuo che prima citavi, Giorgio, tu mi hai detto, è un fisico, no? Sì. Ecco. Quindi molte volte quindi il contributo era multidisciplinare, tra matematici, fisici, biologi, infettivologi, no? Chi comunque. E questo è stato proprio quello che la scienza deve fare in questo momento: saper coniugare in maniera organica e sensata, però. Le varie discipline per affrontare un problema enorme come questo, che non è un problema di un grave che rotola su un piano inclinato, ma è qualcosa che si fa alla virologia, quindi al mondo alla microbiologia molecolare, eccetera, fino ad arrivare ad analisi per stabilire appunto gli andamenti delle pandemie, all'analisi dei sistemi complessi, cioè quindi delle società. Tutto ciò è qualcosa che è indispensabile, la multidisciplinarietà in questo momento, penso. Do la parola a Lorenzo, facciamo una piccola pausa, così. In realtà una delle cose che gli vanno riconosciute a loro è che sono riusciti, anche se hanno dovuto resistere in certi momenti, a evitare clamorosi salti in avanti e quindi a proporre verità, no? Quello che raccontava lui mi ricordava il vecchio capo cantieri, dai cantieri edili, dove c'era l'ingegnere capo che decideva tutto, dagli infissi al coso. Così probabilmente sono i baroni dell'università che tengono incatenati voi precari. E mo appena facciamo la pausa, che ci è stata suggerita per in memoria di George Floyd da Davide, ci ha chiesto di mettere questo pezzo. Appena ritorniamo dalla pausa musicale parliamo un attimo di questi rapporti, sempre con il comandante Jacopo. Io non sono mai stato precario all'università, quindi di questi rapporti tra precariato e baronato e pubblicazioni scientifiche e cose. Mandiamo questa musica, se ci riusciamo. Fuck the police, ovviamente. About now, NWA quarters in full effect, Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown and not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. You will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying. Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh, because it gives them a hint not to step in my path. For police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club, so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but try. Eccoci, eccoci, bentornati a tutte e tutti, e mi scordo sempre di salutare. Questa è Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Stiamo parlando di così una riflessione proprio en passant pomeridiana, visto che si sono allungate le giornate, su iniziale sui rapporti tra scienza e coronavirus, comunità scientifica autorevoli, comunità potere, insomma, cercando di rimettere in fila, così col nostro caro ospite Silvio e col nostro comandante Jacopo, di mettere in fila qualche pensiero sparso che ci è venuto in questi giorni. Non è facile che noi riusciamo a mettere in fila dei pensieri, mai, quindi anche questa volta cerchiamo di far meno confusione possibile. Ripasso la parola al comandante e basta. Sì, grazie Lorenzo. Sì, rispetto alle riflessioni che dici tu, certo, una di quelle che a me in questi mesi mi è, insomma, spesso mi tornava alla mente, ma riflessioni vecchie queste, perché anch'io vengo dal precariato, di tanti anni di precariato nella ricerca scientifica, e quindi sono riflessioni che sono state fatte nell'ARC, sviluppate attraverso comunque anche lotte nell'arco di questi ultimi 10-15 anni contro il precariato e la ricerca. E infatti cosa è successo? È successo che in un periodo di massima crisi, di massima allerta e pericolosità, ovviamente gira che ti rigira, la gente si rivolge alla scienza come l'unico mezzo per avere risposte, per vedere, come si è sempre detto, la luce in fondo al tunnel. Ora però la scienza non è qualcosa che le scoperte scientifiche non è che avvengono con la bacchetta magica, non è che da un giorno all'altro uno si sveglia e fa la grande scoperta e che risolve i problemi del mondo. La ricerca scientifica ha bisogno di un lungo percorso di sviluppo, ma soprattutto appunto per garantire questo sviluppo solido, organico e diciamo anche universale, internazionale, ha bisogno di fondi, di soldi, ma soprattutto di fondi che non siano vincolati, a interessi, particolari, economici. E invece cosa è successo? I nodi sono venuti al pettine oggi più che mai. Certo, fin quando si parla, come abbiamo noi spesso parlato, di scoperte della fisica in questo ciclo di puntate, fin quando uno scopre il bosone di Higgs, scopre un buco nero, vabbè, insomma, ma quando riguarda la salute di miliardi, anzi di tutto il mondo, di miliardi di individui, la questione è molto più grave. Ma arrivati a questo punto non è che ci si può inventare nulla. E allora abbiamo assistito ovviamente a, diciamo, la risposta che ha dato la scienza attraverso le parole degli scienziati, con tutti i limiti, che anche loro sono esseri umani, anche loro obbediscono a delle logiche purtroppo anche di potere, anzi soprattutto, sono state spesso molto limitate. Ci siamo trovati a un punto in cui si è visto che la scienza deve essere, per andare avanti, per rispondere per rispondere alle nuove problematiche che si stanno affacciando alle porte. Adesso la pandemia, ma è strettamente correlata al riscaldamento globale, perché ovviamente questo virus, come abbiamo imparato, viene fuori da un spillover, da una zonazione, quindi un passaggio di specie. Ma questo passaggio di specie è avvenuto, la probabilità che avvenga è direttamente proporzionale a quanto l'uomo devasta l'ambiente e gli ecosistemi, e quindi è tutto correlato. Ma questi sono problemi complicatissimi in cui la scienza ha i suoi tempi, ma soprattutto deve avere risorse e fondi. Quello che accennavi tu, in cui si è visto anche appunto il fatto che molti c'è stata la gara a chi faceva la pubblicazione per prima, a chi voleva come dire essere il demiurgo di questa pandemia, si è visto come è stata fallace, come molti risultati, molte conclusioni a cui sono arrivati sono stati assolutamente, faremo qualche esempio, ma lo farà Silvio, su come sono stati incredibilmente fallaci. Questo deriva dal fatto che la scienza è poco finanziata spesso, c'è un circuito di baronie, di grande precariato, per cui fare una pubblicazione prima degli altri, farla a tutti i costi, questo significa comunque in un certo senso avere più visibilità, avere più fondi, avere più potere, mentre invece è proprio quello che la scienza non deve avere, cioè la scienza deve avere la tranquillità necessaria per fare la ricerca, per porsi quesiti e per rispondere a questi quesiti. Se sono condizionati dal potere, dal fatto che se tu non fai quella pubblicazione, adesso semplifico un po' per far capire ai radioascoltatori, se non fai determinato un numero, diciamo un tot di pubblicazioni l'anno, tu per esempio non riuscirai a garantire il rinnovo dell'assegno di ricerca annuale al postdottorato, al dottorato che tu professore che hai sotto e che devi garantirgli un futuro. Questo porta a una rincorsa e un accaparramento di fondi che sono distorti rispetto ai metodi e alla velocità con cui la scienza invece dovrebbe andare. Il baronato è un problema, più si tolgono fondi pubblici alla ricerca, più il baronato si rafforza invece di diminuire, paradossalmente, perché se lo Stato investe il barone significa proprio il professore, il cattedratico che gestisce il potere, avrà meno potere, cioè nel senso in un certo senso si potranno creare più posti da ricercatori e diluire questo potere, ma se i posti scendono il barone ha quei pochi posti liberi, deciderà lui chi metterci, quindi questo andrà a discapito appunto della meritocrazia, eccetera, vi lascio immaginare insomma il problema. Questo adesso, Silvio, insomma, noi abbiamo parlato appunto di questo, tu come la vivi? Appunto tu hai detto prima che sei precario, hai tutto il mio affetto e solidarietà perché so cosa Grazie. Significa, però sei ancora giovane, quindi speriamo che, che le cose si risolvano presto. E come la vivi, come l'hai vissuta, com'è in questo momento soprattutto la precarietà nel mondo della ricerca, soprattutto una ricerca che adesso è nell'occhio del ciclone? Sì, allora, il discorso è un po' questo, che inizia a esserci un meccanismo per cui non esiste più una precarietà nella ricerca, ma esiste solo la precarietà, cioè è un fenomeno che in qualche modo, mentre un tempo si riteneva eccezionale, quindi un'eccezione in qualche modo a una norma che invece era diversa, e attualmente è il meccanismo con cui funziona la ricerca. Questo cosa significa? Significa che le proiezioni, diciamo, sul numero di unità di personale precario confrontate con il numero di unità di personale stabile all'interno degli Atenei ci dicono che nel corso di qualche anno i due valori si equivarranno e poi ci sarà un sorpasso da parte dei precari. Il governo ora in questo decreto si è molto, diciamo, fatto vanto di aver messo un discreto quantitativo di soldi sulla ricerca, perché chiaramente era inevitabile in un momento in cui si afferma l'importanza della scienza, delle competenze e quant'altro, recuperando, diciamo, questa narrazione della scienza che salva l'umanità e quant'altro, sarebbe stato abbastanza stupido non dare un segnale politico e dare qualche soldo all'università. Per farvi capire quanto questa cosa sia però irrilevante e si riduca a uno spot, io cito un solo dato: tra i tagli della riforma Gelmini e le prospettive di pensionamento, noi rispetto al 2010 tra 5 anni avremo 28.000 unità di personale strutturato in meno. Il decreto ne assume 5.000, vuol dire che di fatto abbiamo un saldo negativo rispetto al 2010 di 23.000 unità. Queste 5.000 persone che potranno essere assunte, a fronte di quante unità di personale precario saranno assunte? A fronte di circa 70.000 unità di personale precario, parliamo quindi dell'assunzione praticamente di un quattordicesimo dei precari attualmente presenti. Questa cosa è chiaramente è correlata a quello che è il sistema della ricerca, cioè la ricerca è diventato un settore dove vige l'ultra competitività, tant'è vero che il decreto non dice nulla sulla famigerata VQR, cioè sulla valutazione della ricerca, che è quel meccanismo brutale che mette in competizione dottorando con dottorando, assegnista con assegnista, fino a mettere in competizione i dipartimenti tra loro per la spartizione dei fondi. Ma questa precarietà chiaramente, oltre a essere un dato strutturale della nostra società, nella ricerca si conforma a quel sistema di potere basato sulla competizione, cioè nella misura in cui da quanto tu produci, da quanto tu sei disposto a sacrificarti, da quanto sei anche in qualche modo disposto a sottostare diciamo alle regole feudali con cui poi funzionano spesso questi contesti, dipende quanto tu avrai un rinnovo del contratto precario e quant'altro. Se chiaramente noi iniziassimo a fare assunzioni a tempo indeterminato con tutte le tutele del caso, sarebbe molto molto più difficile disciplinare quei lavoratori e quelle lavoratrici. Perché? Perché non vivrebbero col ricatto di questi contratti che scadono ogni 12 mesi. Il governo ha fatto un'altra cosa in questo decreto, che è stato sostanzialmente prorogare il tetto massimo ai contratti precari, cioè con questo decreto si potrà rimanere precari per 12 anni. Il che diciamo nella loro idea è un po', non so come dire, un dare respiro, un non buttare fuori le persone, dopodiché chiaramente il punto è che non si risolve così questa cosa, ma si dovrebbe risolvere con delle assunzioni e con un sistema un po' più sano, perché poi è anche un sistema che si basa ad esempio su queste procedure di evidenza pubblica, che sono i bandi tipici della pubblica amministrazione, che però il 99% delle volte appunto non è che abbiano proprio questi criteri di trasparenza e quant'altro. Ma perché? Esattamente perché è una lotta all'ultimo sangue per pochissime risorse, e quando le risorse sono così poche nella lotta per la sopravvivenza, poi escono fuori anche delle rendite di posizione, dei padronati, i cosiddetti feudi che gestiscono i loro contratti e quant'altro. Su questo non mi sembra che ci sia un segnale di discontinuità, cioè quello che ha fatto il governo è stato dire: com'è bella la scienza che ci salva dal coronavirus, cacciamo fuori un po' di soldi che come non se ne erano visti per 30 anni, perché il problema è che nonostante questo decreto non serva assolutamente a nulla, in realtà rispetto al trend è uno stanziamento piuttosto rilevante, ma non c'è nessun ragionamento strutturale di prospettiva su come valorizzare quel settore lì, e quindi continueremo a vedere questo fenomeno, diciamo. Poi a me non piace come termine cervelli in fuga, perché non capisco perché qualcuno che fugge ha un cervello e qualcun altro che fugge e magari non fa il ricercatore non ha un cervello. Però ecco, si continuerà invece a favorire questo meccanismo per cui i giovani ricercatori se ne andranno all'estero, e anche in una logica, diciamo, non so come dire, in una logica di buonsenso, investire su delle persone facendole arrivare fino ai massimi livelli della formazione per poi vederle andare via non mi sembra proprio il massimo. Però su questo non c'è nessun impegno strutturale. Sì, e poi facciamo un'altra pausetta. Non mi sembra che almeno non mi sembra di aver notato, te lo chiedo, anche se fosse il triplo il finanziamento, non mi sembra di aver notato un discorso almeno sulla riorganizzazione. Mi sembra che alla fine questi soldi confluiranno di nuovo negli ambiti già esistenti, e quindi dove c'è un certo tipo di ricerca, che ne so, nell'ambito medico, proprio quella lombarda, no? Tra il San Raffaele, dove la privatizzazione è estrema, i soldi finiranno lì, come, che ne so, come era successo per i vari comitati Teleton, anche nella ricerca buona, e nelle università si spargeranno nei soliti meccanismi di potere. Quindi in realtà questa cosa qui ricostituirà quello. Metto giusto un'altra musichina e facciamo poi l'ultimo stacchetto. Eccoci, rientriamo, la musica è finita, gli amici se ne vanno, rientriamo in radio. Aspetta Davide, mentre stavamo al telefono, i soliti casini. Questi che abbiamo sentito l'abbiamo messi pure con malinconia l'ultima volta che abbiamo trasmesso dalla radio, e la particolarità è che sono in tendenza perfetta, perché è un gruppo molto americano, molto interessante, la cui cantante era una dipendente universitaria che invece ha deciso di abbandonare l'università per poi tornare al precariato, in questo caso qua musicale, però è diventata famosa, quindi insomma ecco, così ritorna a bomba. I precari della ricerca certe volte, ma non so se era della ricerca, magari faceva l'amministrativa, però è stata costretta addirittura a darsi all'arte per sopravvivere. Passo la parola al comandante Jacopo. Ah, io so di un esempio diverso, mi pare il primo batterista dei Beatles era diventato ricercatore al CERN di Ginevra. Quindi insomma, dicendo che i Beatles non avrebbero mai fatto carriera. ha preferito fare il fisico. Va bene, quindi vabbè, siamo addirittura d'arrivo verso la fine della nostra trasmissione, però abbiamo ancora un po' di tempo per fare alcune altre riflessioni. Rispetto a quello che dicevi, Silvio, sì, mi è venuto in mente anche il fatto che i campi della ricerca medica, microbiologica, farmaceutica, eccetera, risentono molto appunto di una grande ingerenza, pressione da parte delle case farmaceutiche, per esempio. Le ricerche spesso sono molto pilotate, perché appunto la ricerca, che è pubblica ma viene spesso e volentieri finanziata dai grandi gruppi multinazionali farmaceutici, e questo implica che anche il tipo di ricerca non è libera, anzi è condizionata, e spesso le opinioni, tante volte abbiamo assistito a tantissimi esempi, scandali eccetera, rispetto all'applicazione di farmaci che poi si sono verificati dannosi, ecco. Quindi avere una ricerca libera fuori da ogni tipo di interesse economico, ecco, questo è fondamentale, però questo richiede ovviamente non quei pochi soldi di questo decreto, ma richiedono, dovrebbe essere una delle principali fonti proprio di spesa da parte dello Stato. Se noi ribaltassimo semplicemente il PIL dedicato alle spese militari, o ribaltassimo la ricerca, insomma, a quest'ora io penso che vivremo in un mondo assolutamente molto più accettabile. Una ricerca appunto libera, giusta e anche rivoluzionaria in un certo senso. Rispetto a questo ti volevo far continuare rispetto a quello che dicevi, che è molto interessante, insomma. Sì, ma allora anzitutto sgomberiamo il campo, nel senso che a volte quando si parla di questa cosa degli interessi privati nella ricerca sembra come se sia, non so come dire, qualcosa che passa sotto traccia, di nascosto, un piccolo complotto. No, è una cosa chiarissima, tra l'altro pubblicamente nota. La maggior parte delle ricerche sono in qualche modo finanziate o direttamente da aziende private o da fondazioni in cui comunque i fondi arrivano da privati. Questo per dire, cioè, perché noi spesso stiamo su questo crinale un po' difficile in cui c'è, soprattutto in ambito scientifico, c'è questo detto non detto, ma allora ci nascondono qualcosa, non ci nascondono qualcosa. Per chiunque fa scienza, fa ricerca, è assolutamente ovvio che ci siano i privati e che ci siano quegli interessi, quindi affrontiamo la cosa così, come un problema, diciamo, anche di rapporti di forza e non di qualche strana macchinazione, perché poi c'è sempre il rischio di non capirsi. Questo problema c'è assolutamente. Io lavoro in ambito biomedico e chiaramente l'interesse delle aziende farmaceutiche, ma più in generale del sistema economico, anche inteso in termini più ampi, è molto molto chiaro. Io faccio un esempio su tutti, per tornare a noi. Quando ci fu l'epidemia di SARS nel 2002-2003, chiaramente si iniziò a ricercare un vaccino, come era ovvio che fosse. E quando poi la SARS in qualche modo finì a fondo cieco, quindi non divenne un fenomeno pandemico, si riassorbì, quelle ricerche per il vaccino furono dismesse, ma non è che furono dismesse perché qualcuno ha detto ci siamo salvati, pace. Furono dismesse per il semplice fatto che in assenza del virus ad alti livelli di circolazione, di un potenziale compratore, esatto, non c'era più un interesse nel produrre questi vaccini. Ma attenzione, perché in realtà tra le linee guida per la prevenzione pandemica c'è esattamente questa, cioè c'è il fatto che se noi avessimo avuto un vaccino per un virus simile a questo qui, probabilmente, non è detto che ce la saremmo scampata in 4 e 4-8, però se quella ricerca del vaccino fosse andata avanti fino a produrre un vaccino che magari sul momento era economicamente infruttuoso e sanitariamente inutile da un punto di vista sanitario, oggi invece potrebbe avere una grande utilità. Questo per far capire come poi in realtà il problema è sempre cogliere i rapporti di forza in termini più generali, perché sembra quasi come se ci sono i ricercatori che hanno questo guinzaglio. In realtà i condizionamenti economici, poi quando si parla di salute soprattutto, per assurdo riguardano quasi meno i ricercatori che la popolazione, perché poi è quello il tema di cui parliamo, almeno in ambito biomedico. Certo, io per fare altri esempi, proprio oggi, senza entrare in merito, perché non voglio entrare in merito a questioni che non so, però ecco, un altro, oggi abbiamo assistito alle dichiarazioni del primario di rianimazione San Raffaele, del professor Zangrillo, che se n'è uscito dicendo che da un punto di vista clinico il virus non è più rilevante. Cosa voglio dire questo? Io sinceramente non l'ho capito, no, e penso come me milioni di italiani. Ora, questa è un'altra roba che viene fuori, però Zangrillo l'ha detto urbi e torbi in televisione, dandosi molta visibilità, una cosa che secondo me non doveva dire, lo doveva dire nel comitato degli esperti a chi di dovere, constatazioni mediche assolutamente legittime se vogliamo. Ma abbiamo avuto un altro esempio subito di arrivare ai mass media, arrivare alle luci, avere le luci alla ribalta, così come per esempio, se mi aiuti a dare quelle, a descrivere ai radioascoltatori questo esempio, per esempio quella pubblicazione, quei ricercatori che dicevano che le PM10 erano strettamente correlate alla propagazione del virus. Ora è stata un'autentica, posso dirlo, boiata? Aspettiamo.